Alessio Festi, sindacalista SLC CGL, giusto la sigla, me la ricordo bene. Ti tocca, Alessio, rispondere un po' a tutte queste cose che abbiamo sentito. Quindi abbiamo parlato di diritto di lavoro con salari, contratti, rapporto di fiducia, tempistica. Già questo prenderebbe molto tempo, però ti tocca di parlare anche di un'altra cosa, ovvero quali sono gli strumenti di rivendicazione e di lotta sindacale che hanno a disposizione, si hanno a disposizione in questo mondo. Tieni presente anche che credo che un po' di noi ieri abbiano sentito Monicelli da Santoro che ha detto che non occorre speranza ma rivoluzione, quindi stai molto attento a quello che dici. Infatti non utilizzerò il termine speranza dopo ieri, l'ho sentito anch'io. No, innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito che mi avete fatto oggi. Non ho neppure la pretesa di avere tutte le risposte, perché diciamo così, sarebbe oltremodo pretenzioso. Sento, metto più vicino il microfono. No, io vorrei proporre alcuni punti di vista, alcune valutazioni rispetto alle questioni che tante, insomma, molto ampie sono emerse dalla discussione di oggi. Parto da alcune considerazioni di carattere generale, ma per poi arrivare un po' più al dunque dei problemi che ci troviamo e che vi trovate ad affrontare. Noi siamo dentro un fenomeno di precarizzazione, e cioè, a mio avviso, e ad avviso della CGL, la situazione lavorativa, professionale, che purtroppo state vivendo alcuni anche da un lungo periodo di tempo, è un fenomeno che sta diventando assolutamente preponderante, non solamente nei vostri settori, ma nei settori tradizionali, anche, diciamo così, con professionalità molto molto più basse rispetto alle vostre. Questo, diciamo così, è causato dai fenomeni che sono intervenuti negli ultimi anni e che hanno coinvolto le imprese, anche le imprese editoriali. Oltretutto nei settori editoriali e della stampa, che sono quelli che seguo insieme ad altri, la tecnologia ha avuto un impatto rilevantissimo e in prospettiva sarà ancora più rilevante, per cui abbiamo di fronte uno scenario molto magmatico, anche che si fa fatica a immaginare quali possono essere gli sbocchi, le prospettive. Un fenomeno di precarizzazione che oltretutto la crisi ha accelerato in maniera rilevantissima. Vi dico un dato perché credo faccia molto riflettere. A Bologna nel 2009 l'83% degli avviamenti al lavoro non sono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che è un fattore devastante anche per la rappresentanza, per quelli che rappresentiamo noi, per come noi dobbiamo ricostruire un livello di rappresentanza. Perché il sindacato, ed è un bene che lo sia, è anche un nostro limite, ma è un bene che lo sia, è molto bravo a rappresentare i lavoratori a tempo indeterminato, molto meno bravo e adeguato a rappresentare i nuovi lavori. Per come siamo strutturati, non saremmo una grande organizzazione di massa, io non condanno la nostra struttura per questa ragione, ma a mio avviso è giunto il tempo che noi dobbiamo misurarci con molto più coraggio sui processi che stanno investendo realmente il mondo del lavoro e anche del lavoro editoriale, che è il vostro settore. Poi noi rimaniamo bloccati, io ho guardato anche con attenzione il vostro sito in questi giorni, insomma, ho provato ad indagarvi un po', da una discussione che al nostro interno, a mio avviso, questo vi do un mio punto di vista, non pretendo di rappresentare la CGL nel suo complesso, ha un po' bloccato la nostra discussione, quale? Cioè noi ad un certo punto ci siamo trovati bloccati in una discussione che diceva: per noi la precarietà non deve esistere, bisogna che la combattiamo, per cui di fatto non possiamo occuparcene, perché altrimenti avvalleremmo l'esistenza della precarietà. Poi invece di precarietà si è stati invasi, la realtà ci fa misurare ogni giorno sulla precarietà, tanto ad arrivare a, diciamo così, immaginarci e non è ancora conclusa al nostro interno quella discussione, ma produce un problema, adesso lo racconto in termini molto rapidi, una struttura che rappresentasse direttamente il lavoro precario, che è una categoria che si chiama NIDI, le nuove identità di lavoro, che dovrebbe, si candida a rappresentare il lavoro precario. Dando l'idea però di una separatezza. Il Superman, è molto carino quel racconto, e invece il resto dei lavoratori. Poi anche qui noi abbiamo delle forti contraddizioni, adesso le voglio, oggi parlo con molta, in maniera molto molto esplicita, anche perché diciamo così anche la mia età nell'organizzazione sindacale in cui che rappresento mi consente di essere abbastanza esplicito. Noi abbiamo un problema della nostra rappresentanza. Noi spesso e volentieri abbiamo, per certi aspetti, preservando la nostra rappresentanza, scaricato la flessibilità e i costi verso la precarietà, verso i giovani. Questo è un fenomeno che abbiamo avuto. Infatti anch'io alcuni accordi dove orari disagiati, professionalità più basse, erano scaricati verso i lavoratori più giovani, perché non erano quelli che rappresentavamo, perché c'era una spinta dalla nostra base a non introiettare elementi di precarietà. Ecco, io credo che noi dovremmo invece iniziare ad averci un approccio molto molto diverso ai temi che riguardano la precarietà e volendo anche molto molto più realista. Dovremmo farci conti, in buona sostanza. E per ottenere un qualche risultato, perché non sono scollegati gli argomenti, dobbiamo agire su vari piani. Sulla tutela individuale, sul dar risposte concrete alle persone, da vari punti di vista, insomma, sulla loro condizione, sulle normative fiscali, quant'altro. Da un punto di vista contrattuale e da un punto di vista legislativo. Perché per avere efficacia, dentro la crisi di efficacia della contrattazione che sta subendo il sindacato per i fenomeni di precarizzazione e di scomposizione produttiva, noi dobbiamo agire da vari punti di vista, sapendo che abbiamo di fronte le associazioni datoriali, la risposta insomma, che vi ha dato l'associazione degli editori è abbastanza evidente, e sicuramente un panorama legislativo che non ci aiuta da questo punto di vista, anzi, che struttura la precarietà. Cosa sta avvenendo in questo paese? E bisogna contrastare fortemente quell'idea. Si sta destrutturando il mercato del lavoro e il presupposto basilare su cui è stato strutturato il rapporto giuridico fra lavoratore e imprenditore, e cioè che il lavoratore è un soggetto debole. Quest'anno noi festeggiamo i 40 anni dello Statuto dei Lavoratori. Lo Statuto dei Lavoratori nasce dal presupposto che siccome il lavoratore è un soggetto più debole rispetto all'imprenditore, deve avere maggiori tutele. Il Libro Bianco di Sacconi, invece, semplificando molto, paragona il contratto di lavoro a un puro contratto commerciale. E per quella via destruttura la contrattazione collettiva, la tutela collettiva del lavoro. Per questo io ritengo che, facendo molta attenzione a non, diciamo così, come dire, a non dichiarare che la precarietà può essere elemento strutturale, però dobbiamo occuparcene anche nei rinnovi contrattuali e anche nella funzione negoziale che svolgiamo. Vi faccio un esempio, perché è dell'ultimo periodo, e vi faccio anche una proposta da questo punto di vista. Alla fine di marzo scade il contratto nazionale dei grafici editoriali, che è il settore in cui voi operate. Circa una decina di giorni fa abbiamo svolto un nostro coordinamento nazionale per, diciamo così, capire le coordinate della piattaforma per il rinnovo del contratto. È un punto, secondo me, molto interessante il fatto che tutto il coordinamento nazionale abbia deciso che alcuni temi che riguardano la precarietà e la condizione dei lavoratori precari debba essere prioritario nel rinnovo contrattuale. tema salariale, io ho guardato le statistiche che voi ci avete fornito, è incredibile che un livello di professionalità elevato come la vostra poi si traduca in stipendi, diciamo così, molto molto miseri. Il 70% di voi prende dai 900 ai 1500 euro al mese, no? O forse anche meno. No, sono le statistiche che mi avete dato voi, adesso sono le vostre, più sul 900, però io guardo il 70% in cui arrangio, insomma, da 900 a 1500 euro al mese, che lordi per un lavoratore precario senza, perché adesso anche qui il basso salario si è scambiato, diciamo così, con la stabilità del lavoro, per quanto riguarda voi non esiste, no? Per cui il lavoratore a tempo indeterminato magari ha un basso salario, però è difficile che venga licenziato, tutti gli ammortizzatori sociali, per cui ci sono logiche di scambio anche da questo punto di vista, no? Allora, qui però dobbiamo noi concretizzare un rapporto e, diciamo così, darci fiducia vicendevolmente, no? Anche perché noi dobbiamo, diciamo così, avere una rappresentanza reale, cioè bisogna organizzarla la rappresentanza. Allora, io ritengo che innanzitutto noi si debba fare un lavoro molto attento su come impostare il nostro profilo rivendicativo. Dico un esempio, noi siamo contro l'illegalità, per cui noi non possiamo in un rinnovo contrattuale stabilire, come spesso avviene nella realtà, che un'attività parasubordinata, che invece dovrebbe essere subordinata, diciamo così, è legale l'utilizzo di quella tipologia contrattuale. Da questo punto di vista, ecco, l'attività di questo governo sicuramente non ci aiuta, perché se vi dico la situazione in cui versano gli ispettorati del lavoro o le direttive del ministro Staccone rispetto agli interventi per quanto riguarda la verifica della subordinazione o meno dei contratti di lavoro, è una cosa raccapricciante. Noi non abbiamo più possibilità di intervento, gli ispettori non hanno più possibilità di intervento da questo punto di vista. Poi dobbiamo, diciamo anche qui, capire chi vogliamo rappresentare. Adesso è ovvio che, diciamo così, noi non rappresenteremo mai le altissime professionalità, no? Quelli che realmente, no, hanno, diciamo così, vari contratti con varie case editrici, insomma con livello di autonomia e quant'altro. Noi dobbiamo rappresentare quelli che spesso e volentieri sono il lavoro subordinato mascherato in buona sostanza. E poi dobbiamo cercare di costruire insieme questo livello di iniziativa. Per cui io ritengo, ed è la proposta, insomma, che poi oggi vi faccio, per cui più che risposte, diciamo così, abbiamo proposte e una istanza da costruire insieme, che una vostra rappresentanza possa partecipare direttamente alla costruzione della nostra piattaforma rivendicativa, soprattutto per quanto riguarda il pezzo che vi riguarda. Cioè, noi ne abbiamo bisogno di parlarne con voi. Io, diciamo così, dobbiamo capire insieme quali sono gli obiettivi, quali sono le priorità che eventualmente ci diamo e fin dove possiamo spingerci. Io credo che ci siano alcuni terreni prioritari che riguardano i livelli retributivi, perché altrimenti avvengono quelle distorsioni evidenti, per cui occorre che da un punto di vista contrattuale conquistiamo il fatto che a 3 euro all'ora non si possa far lavorare, punto. E su alcune altre questioni strategiche sono i diritti, dico la malattia, dico la maternità, dico il preavviso eventualmente prima di un eventuale licenziamento. Io se sono sempre per una via piuttosto gradualista, perché a mio avviso fa più i conti con la realtà, però questa via dobbiamo elaborarla insieme e soprattutto essere in grado di mettere in campo una forza e un'iniziativa che, insieme ai lavoratori Superman, secondo me può garantire una maggiore efficacia rispetto a un'iniziativa solamente di una parte di lavoratori. Chiaramente qua la discussione continua, o qui o qua di fianco all'altra sera del modo InfoShop.